Flash 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Permettere la nascita di uno Stato palestinese sarebbe un grave errore. Chi dovesse concedere ai palestinesi uno Stato di fatto permetterebbe all'Islam estremista di avere un territorio da cui attaccare, ha detto Netanyahu. Ho detto a Netanyahu che le sue dichiarazioni adesso rendono difficile trovare un terreno su cui discutere, ha replicato Obama. Professor Sergio Romano, storico, ex ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera. Ecco, prima delle elezioni Netanyahu aveva detto niente Stato palestinese, poi ha cambiato subito idea, appena vinte le elezioni. Sono i rapporti con Obama che nel loro essere altalenanti determinano queste scelte? Sì, sono i rapporti con Obama e con gli Stati Uniti in generale, anche se in altre circostanze Netanyahu ha dato la sensazione di considerare Obama come un interlocutore minore di cui poteva fare a meno. Era convinto di avere nel Congresso, nella politica americana, degli appoggi, dei sostegni che gli avrebbero partito, che gli avrebbero permesso di agire anche contro la volontà della Casa Bianca. Cioè un presidente al suo ultimo mandato in contrasto con lui come Obama, insomma, non è che lo spaventa molto, è questo? Sì, anche se naturalmente Obama ha 22 mesi di presidenza. Certo, e sono tanti. Mesi può certamente creare per Israele parecchi problemi, per esempio se decidesse di modificare l'atteggiamento, la politica degli Stati Uniti all'ONU. Quante volte il veto ha salvato Israele da risoluzioni che Israele evidentemente considerava. E quello è uno strumento forte che può convincere Netanyahu, insomma. Penso di sì, anche perché Netanyahu naturalmente è circondato da persone che hanno posizioni diverse, considerano il rapporto con gli Stati Uniti molto più fondamentale ed essenziale di quanto sembri considerarlo Netanyahu. Ecco, professor Romano, il Wall Street Journal ha pubblicato la notizia che il governo di Netanyahu avrebbe svolto un'attività di spionaggio durante le prime sessioni a porte chiuse nella trattativa sul nucleare iraniano. È possibile? Sì, è certamente possibile, per certi aspetti è addirittura ammesso. Devo dire che ci sono differenze fra spionaggio e spionaggio. Noi sapevamo, ce l'avevano detto, che si spiavano a vicenda, ma in questi casi lo spionaggio di Israele è particolarmente grave e serio, perché le notizie raccolte attraverso fonti confidenziali sono state usate per, come dire, per creare zizzania all'interno della politica americana, della politica interna americana, e questo è stato considerato, per così dire, inaccettabile. Ecco, proprio oggi a Losanna il segretario di Stato americano Kerry incontra il ministro degli esteri iraniano Zarif per nuovi colloqui sulla trattativa. Ecco, qual è il punto sul quale non si riesce a fare un passo avanti? Ma a me sembra che il punto sia quello della lunghezza del periodo che consentirebbe allo Stato iraniano di avere un'arma nucleare. Sembra paradossale, sembra un pochino buffo che un accordo destinato in apparenza a evitarlo del tutto in qualche modo ammetta questa ipotesi e questa possibilità. In altre parole, si è deciso di consentire che gli iraniani arricchiscano il loro uranio. Del resto è tollerato e permesso dal trattato di non proliferazione, era abbastanza assurdo in un certo che senso non fosse possibile. Che non fosse possibile. Ecco, se non si rispetta la scadenza del 31 marzo per un accordo di principio, che cosa succede? Bisogna ricominciare tutto da capo? No, non credo, ho l'impressione che dipenderà molto naturalmente da quali saranno le condizioni, certo, del negoziato nel momento in cui si interrompe, al momento del 31 marzo, ma ho l'impressione che a questo punto potrebbero dare a se stessi una nuova scadenza, in altre parole un tempo supplementare. Ma l'Iran, secondo lei, professor Romano, è un alleato affidabile nella lotta all'ISIS? Nel mondo musulmano oggi è il solo Stato. Voglio dire, Stato, le sue strutture, con tutte, certo, le sue articolazioni, con la sua capacità di dialogare su piani diversi. tutti gli altri sono più o meno in crisi o hanno, per carità, anche l'Arabia Saudita è uno Stato, ma naturalmente non ha le caratteristiche familiari e dinastiche dell'Iran. Insomma, l'Iran è un interlocutore. È un interlocutore. Ecco, leggiamo sempre più spesso e vediamo che gli attacchi dell'ISIS sono sempre più dichiaratamente anche un'espressione di una lotta interna, diciamo una guerra civile, per dirla semplicemente, all'interno dell'Islam. Ecco, ma per il primato su cosa? Ma la cosa molto buffa è che, ma questo è tipico di tutte le guerre di religione e certamente è accaduto anche per il cristianesimo, le motivazioni sono sempre irrazionali, non sono mai motivazioni che possono, come dire, dare prove di una certa concretezza, per cui si può cercare di modificare questo, mettersi d'accordo su quest'altro. No, all'origine di questa guerra civile musulmana vi è un problema dinastico, un po' come quando nelle monarchie medievali due rami della famiglia si disputavano il trono. All'inizio il problema è quello della successione di Maometto, e quando a un certo punto una parte dell'Islam si ritiene danneggiata dal modo in cui un'altra parte dell'Islam ha scelto il successore di Maometto, a questo punto scoppia una diatriba che si prolunga per parecchi... E siamo lì, tra sciiti e sunniti siamo lì. Siamo lì. Naturalmente poi quando due grandi gruppi religiosi si separano, naturalmente ciascuno dei due gruppi si sviluppa autonomamente, producendo le proprie istituzioni, i propri principi, i propri dogmi, fra virgolette, perché... E quindi, sì, e quindi finisce quando, soltanto quando uno ha la supremazia definitiva sull'altro. Sì. Per di più naturalmente esiste un problema di cui noi non siamo abbastanza consapevoli. Questi due gruppi religiosi vivono nel mondo musulmano e vivono molto spesso in paesi in cui il gruppo dirigente è sunnita e la maggioranza della popolazione è sciita. 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Ansia, incubi, un esaurimento nervoso. C'è un limite ai traumi che una persona può sopportare. Qualche problema? No. Vogliamo parlarne? Volevo sapere se ti era rimasta un po' di quelle tisane, lì, passiflora, tiglio, che era lei? Io ho capito il bonus. Un attacco di panico tipicamente dura dai 2 agli 8 minuti ed è una delle condizioni più stressanti di cui una persona può avere esperienza nella vita. Io ne ho avuti 422. Samantha, mi dà 2 aspirine, per favore. Si sente bene, signore. Soffre mai di claustrofobia qui dentro? No. Ma riprendi qualcosa, per favore! Ok. Questo si chiama Seralin Retard. Per 24 ore uno è completamente coperto dall'ansia. Potete evitare di litigare, non lo sopporto. Il mio Xanax non sta funzionando. Io sto veramente a pezzi. Io vado 2 volte alla settimana in analisi. Soffro di un'insonnia atroce. Dai, l'ansiolitico. Non ce l'ho, l'ansiolitico. Davvero uno? Dai. Non ce l'ho. Gabriele, ce l'ho io. Ma volete un consiglio? Non ci andate in analisi, è un'utopia! C'ho un'anamnesi pazzesca, mi sto qua. Questo è da ultimo stadio. Io sto penultimo. No, è pericolosissimo. Dai, cavolo, non si prendono le medicine così. Come avete capito, oggi parliamo del disturbo dell'ansia. Che nei film fa ridere, ma nella vita reale però può diventare un problema molto molto serio e portare a dei veri e propri attacchi di panico che impediscono una vita normale. Barbara Mazzone è un'attrice, ci racconta la sua esperienza. Ecco Barbara, quali sensazioni hai provato quando hai avuto il tuo primo attacco di panico? È proprio la sensazione di perdere la vita, proprio di morire. Si blocca il cuore, si rigidisce il corpo. Io sono caduta, ero sopra una sedia, sono caduta a terra e ho avuto proprio un attacco che apparentemente sembrava un attacco epilettico. Quindi la paura più grande durante un attacco di panico è proprio quello che la vita finisce, di morire. Sì, assolutamente sì, è proprio la paura della morte, cioè proprio è la percezione che in quel momento la tua vita sta andando via e stai morendo. E che reazione hai avuto tu? La reazione fisica è stata disastrosa, nel senso che sono stata proprio bloccata nel fisico e a livello mentale e spirituale proprio la sensazione che la tua vita è finita, non sei morta ma non hai più autonomia, non sei più indipendente. Ma poi è capitato ancora dopo quella prima volta o no? Sì, è capitato ancora, io ho avuto degli attacchi di panico molto forti per cui la mia vita per circa 3 mesi si è proprio bloccata e ogni volta che provavo a vivere una vita normale mi prendevano questi attacchi che erano apparentemente di ansia ma che sul corpo avevano degli effetti precisi, quindi il cuore iniziava la tachicardia, si bloccava, si irrigidivano gli arti, non riuscivo a respirare più, quindi non potevo essere autonoma, non facevo più le cose in maniera indipendente. E quando hai pensato di rivolgerti a un medico? subito o subito. C'è messo del tempo? No, allora l'attacco è stato talmente forte, il mio in quel caso, che ho pensato subito, per cui ho fatto una serie di ricerche dove mi hanno detto che a livello fisico non avevo niente e che il problema era l'ansia della mia vita. Questi, diciamo, attacchi d'ansia condizionavano completamente relazioni sociali, professioni, vita privata? Assolutamente sì, per un bel periodo della mia vita non ho potuto lavorare e anche la mia vita sociale, non ero più libera di uscire con gli amici, andare a cena, cioè le cose che fanno i comuni mortali non le facevo più. Ecco, ma hai trovato più comprensione o più sospetto intorno a te quando raccontavi o comunque vivevi questa situazione? Ma era un po' altalenante, c'era per fortuna una sfera di protezione, ma c'erano anche tante persone sospette, critiche, giudicanti e anche spaventate, perché comunque descrivevo effetti che erano solo effetti che in realtà non erano concreti, però che poi davano a me una concretezza, cioè io fisicamente ero impossibilitata nel vivere e queste persone pensavano, cioè alcune hanno pensato questa è impazzita. Sinceramente. E come sei riuscita a guarire? Io sono riuscita a guarire, sicuramente ho fatto un percorso con una persona che mi ha aiutato a livello psicologico, mi sono sostenuta con una medicina alternativa perché non prendo farmaci, quindi ho usato i fiori di Bach e poi attraverso anche un mio percorso di fede profonda che ho fatto. Ah. Mario, tu hai mai avuto un attacco di panico? No, per mia fortuna. Ma conosci persone che sì. Sì. Sono conseguenze come questa? Più o meno, sì. Tu Pietrangelo? Sì. Panico mai? No. Però sì, conosco persone che ne sono. La descrizione è questa più o meno. La descrizione è questa ed è sconvolgente che non si riesca neppure a trovare nell'immediato un principio di soccorso, quale potrebbe essere con una ferita, con qualcosa di organico. Ed è uno spavento, confesso, che ti avvicina a qualcosa che può sembrare un esorcismo. È proprio il morbo sacro, sì, essere posseduti da qualcosa che non riesci a catturare. Nella storia tantissimi personaggi hanno raccontato, da Aristotele, Seneca, Petrarca, Flaubert. Ma io ho visto della gente scappare, sparire proprio. Dicevo, ecco, ma che è successo? Poi avevo scoperto che... Era quello, perché non lo dico. Eppure drammatizzare è possibile. No, non è possibile, no, che sembra non credere, sembra non crederci. Io ci provavo sempre. Anch'io. Ecco, il professor Tundo, che è uno psichiatra, uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, direttore dell'Istituto di Psicopatologia di Roma. Ecco, professor Tundo, studi recenti neuroscientifici sembrano dimostrare che in alcuni soggetti una particolare variazione genetica produce nel cervello quella che si chiama la molecola della beatitudine, cioè alcuni fortunati sarebbero naturalmente meno predisposti all'ansia, è così? Diciamo che tutti noi non produciamo esattamente allo stesso modo le varie sostanze che fanno funzionare il nostro cervello, credo si riferisca a una sostanza di non recente scoperta, ma che di recente è venuta alla ribalta, che si chiama anandamide. Esatto. Una sostanza che è molto simile ai cannabinoidi, quindi alla cannabis, quindi per usare un termine molto da ragazzi alle canne, però una sostanza interna, una sorta di cannabinoide interna che ha dei punti di attacco nel nostro cervello e che quando è in abbondanza ci fa sentire più rilassati, più ansiosi e più contenti. Ecco, quindi secondo questi studi le stesse persone sarebbero in qualche modo anche meno soggette a diventare dipendenti da marijuana, da altre sostanze stupefacenti, è così? Esattamente, è come se ne avessero già di loro. La producessero abbondanza. Da solo, insomma. Esatto, per cui se poi ne aggiungono da fuori diventa eccessiva, si calmano troppo. Ecco. E quindi evitano perché non c'è più quell'effetto positivo. Perché gli effetti collaterali calmanti sull'ansia sono quelli della marijuana. Altrimenti poi diventa quello stato di distacco, di perdita di interesse per le cose che l'uso protratto, troppo abbondante di marijuana produce, quindi ecco. Si finisce col passare dal positivo al negativo. Ma cos'è il disturbo ansioso? No, usiamo il termine disturbo d'ansia in maniera generica, in realtà è un contenitore in cui abbiamo diversi disturbi caratterizzati da uno stato di apprensione. Ecco, ma professor Tundo, quanto è diffuso? Disturbi d'ansia sono abbastanza diffusi e soprattutto molto noti tra le persone, tra per esempio il disturbo di panico intorno all'1-1,5% delle persone ne soffrono, l'ansia generalizzata ancora più diffusa 3-8%, l'ansia sociale intorno al 2-3%, quindi si tratta di patologie, disturbi molto comuni. Tutti diversi, che si manifestano in modo diverso o hanno delle analogie nel modo di manifestarsi? No, si manifestano in maniera diversa, si affrontano in maniera diversa. La radice comune è uno stato di apprensione su tematiche diverse, con modalità diverse e con conseguenze diverse. Ma nella sua esperienza c'è una fascia anagrafica e sociale più colpita oppure no? Anagrafica sicuramente, il disturbo di panico e l'ansia sociale sono due problematiche giovanili, compaiono in genere verso i 20-30 anni in media. L'ansia generalizzata può comparire in qualsiasi età, in realtà compare presto ma diventa più intensa, quindi più fastidiosa, quindi più prostrata la persona a chiedere aiuto in età matura. Ma professor Tundo, ma questi disturbi in qualche modo sono legati alla depressione? C'è una percentuale non irrilevante di situazioni. Cioè si può essere depressi e ansiosi allo stesso tempo? Si può essere depressi e ansiosi, e questo può essere un sottotipo di depressione. Si può essere depressi più un disturbo vero e proprio di ansia, quindi avere il disturbo di panico, l'ansia generalizzata, l'ansia sociale, anche, e quindi in questo caso sono situazioni più complesse perché c'è bisogno di una cura che vada a bloccare entrambi i disturbi. Ma l'attacco di panico, professor Tundo, è una degenerazione del disturbo ansioso? No, è in qualche modo l'acme, la fase più acuta di un disturbo d'ansia, perché come se ci fosse un'esplosione improvvisa con un grande malessere fisico, batticuore, giramento di testa, sudorazione, senso di svenire, di morire, di stare per avere un infarto, che mette grande, grande spavento. In qualche modo si può dire che è un disturbo culturale legato alle condizioni di vita di oggi? Allora, questa è una visione filosofica ma non scientifica. Lei consideri che il primo disturbo di panico, la prima descrizione del panico risale ad Areteo di Cappadocia, quindi... Stiamo parlando e quindi non è vero. No, è importante perché c'è chi invece appunto fa questo scenario culturale, diciamo così. No. Chi ha avuto un attacco di panico, l'abbiamo sentito, lo descrive come un'esperienza veramente scioccante, una paura improvvisa, fortissima, ingiustificata, incontenibile. Ecco, cosa succede nel cervello quando si ha un attacco di panico? Accende una piccola area del nostro sistema nervoso che si chiama amigdala, che è una sorta di centralino d'allarme, come se all'improvviso scattasse l'allarme di una casa o di una macchina e va tutto in tilt, e quindi lo spavento, il terrore più puro, e forse l'esperienza che più segna, come noi diciamo spesso, il primo attacco di panico non si scorda mai come il primo amore, rimane impresso nella mente, spaventoso. E come si cura questo attacco di panico? Allora, il disturbo di panico, perché l'attacco di panico sì, poi no, beh, è l'attacco, un pezzo certo, del... il sintomo. Esatto, e forse il disturbo che meglio si cura in assoluto nel campo dei disturbi emotivi, ci sono dei farmaci ultra specifici ormai, in grado nel giro di un mesetto di ridurre il disturbo e in tempi ancora più un pochino più lunghi di bloccare completamente il disturbo, e quindi tutte quelle conseguenze di paure, paura di rimanere da solo, paura di uscire da solo, prendere la metropolitana e via discorrendo, vanno via tranquillamente. E senza farmaci si può curare anche psicologicamente, cioè con cure psicologiche oppure no? Certo, la terapia alternativa, oppure che va a integrare la terapia farmacologica, è la terapia cognitivo-comportamentale. Ma è meglio integrare le due terapie? È molto meglio integrare, decisamente, perché funzionano meglio, funzionano prima e c'è più probabilità che una volta raggiunto il benessere il disturbo non si ripresenti, quindi è più difficile la ricaduta. Ecco, professor Tundo, ma crede che esiste ancora un pregiudizio nei confronti di chi soffre di questo tipo di disturbi psichici? Diciamo purtroppo sì, è uno studio condotto qualche anno fa da cui emergeva che la maggior parte delle persone, uno studio sulla popolazione nazionale, ancora molte false credenze su questi disturbi, e anche c'è molto stigma, si ha paura di ricevere questa diagnosi, si ha paura di seguire le cure psicologiche e forse ancora di più e soprattutto farmacologiche, per tutta una serie di pregiudizi verso queste. E questo invece è proprio terapie. Quello che va sfatato, insomma, chi ha questo tipo di disturbi deve stare tranquillo che si curano tranquillamente. Disturbi d'ansia si curano molto molto bene con farmaci che non danno abitudine, che non danno dipendenza, che non danno sedazione. per intenderci, mi andava a sottolineare, non sono gli ansiolitici la cura per i disturbi d'ansia, ma dei farmaci più specifici abitualmente che agiscono sulla serotonina, su altri neurotrasmettitori. Gli ansiolitici tutti siamo abituati a portarci dietro, ad avere a casa le cosiddette benzodiazepine, in realtà sono solo sintomatici che non curano. Senta, professor Tundo, ancora una cosa, ma qual è il consiglio che lei dà quindi ai nostri ascoltatori, agli ansiosi in ascolto? Che cosa gli dice? Di non aver paura, di non smarrirsi all'idea di soffrire un disturbo d'ansia, accettarlo, prenderne atto, affrontarlo. Sicuramente si vive molto molto meglio senza il disturbo d'ansia, ed è una cosa che si può ottenere tranquillamente. E vale anche per i depressi questo discorso? Diciamo che il discorso della depressione è sicuramente affrontabilissima. La presenza di tutte e due le patologie, disturbo d'ansia e depressione, rende un po' più lungo e complicato il percorso, ma comunque affrontabili. Ecco un tema molto molto caldo fra i nostri ascoltatori che scrivono, questo dell'ansia, del panico. Ernesto dice: andrò controcorrente, ma tanti preferiscono i medicinali piuttosto che cambiare stile di vita, ma non lo so. Paolo da Biella dice: ho provato di tutto, ho risolto il problema dei problemi con poche sedute miracolose di grafoterapia a Biella, capito? Ma Mario, grafoterapia a Biella, beh, ma se funziona, se funziona è andata bene per qualsiasi lui. Cosa. Poi c'è a Padova l'onoterapia, la cura con gli asini. Sì, è vero, anche quello. L'urlo di Munch rappresenta una scena di panico, male di cui soffriva appunto l'artista. Vabbè, c'è l'angoscia è un po' più, diciamo, non è proprio solo un attacco. No, di panico, comunque qualcosa di filosofico. Davide Salonno dice: la cosa più brutta degli attacchi di panico è il fatto che non hanno preavviso, arrivano di soppiato. Mix 24. Marzo un pochi giorni, è nato poco stracco, torna a chiovere schiore, rido solo con l'acqua. Mono cielo celeste. E il sole che ride con l'acqua toglie l'ansia. Toglie l'ansia perché se... e poi toglie l'ansia e mette la malinconia, perché sembrava Venezia la metropolitana oggi. I binari erano canali e i vagoni gondole, perché fuori c'è marzo nel suo declinare. E il filosofo oggi ha tenuto la sua lezione sul poetare, non con Hölderlin come fa di solito, bensì con Salvatore Di Giacomo, perché piove, torna a piovere e poi spiove, ride il sole con l'acqua, come canta Salvatore Di Giacomo in questa poesia che poi è diventata la canzone Catarì, qui nella versione di Massimo Ranieri. Ed è il cielo celeste che si accompagna ad un'aria cupa e nera, e così è Catarì, lei che è un poco inverno e un poco primavera, e l'amato che l'ama è come un uccello intimorito che aspetta il sole, e Catarì invece che è marzo si fa cupa e nera nell'aria, mentre, come canta Salvatore Di Giacomo, sospirano le viole. Catarì che vuoi più, vieni a cuore mio, marzo tu sai se tu... Vabbè. È andata anche la primavera. Cominciata a Napoli, stiamo tranquilli, senza panico. Stiamo a Napoli. Stiamo a Napoli. Anche con le bolle. E tu dove vai? Anche con le bolle stiamo a Napoli. Sì, sì. Andiamo allora. Senti. Voglio tornare. Voglio avere. Ma no, grande voce, Teresa De Sio, fantastica, no? Fantastica. La ricordate? Sì, molto bene. Come no? Senti. Voglio tornare. Ragazzi, io vi faccio un po' di domande. C'è un po' di rumors di palazzo che circolano. Ma quindi è perfetto. Ma che cosa sta succedendo in Campania? Cioè, io sento delle cose incredibili. Allora, De Luca ha vinto le primarie, però c'è un po' di problemini con la giustizia e non vogliono candidarlo, a quanto pare. Non lo vuole Renzi. Questo si dice. Dicono anche che Luca Lotti lo abbia incontrato. Si Luca dice. Lotti, esatto, Luca Lotti è l'executive di Renzi, che lo abbia incontrato, così si dice a Palazzo, e gli abbia detto: beh, guarda, no, non puoi candidarti, dobbiamo trovare un altro cavallo. E quale sarebbe l'altro cavallo da far correre? Si rispunta il nome di Andrea Orlando, che era già spuntato per la Liguria, appunto, cioè candidato a tutto tranne al ministero, dove mi pare che pure stia lavorando, sta lavorando, appunto, lavorando. Allora qua devono sciogliere un nodo, perché se candidi Orlando vuol dire che tu non credi che sia un bravo ministro della giustizia. Non penso. Nel momento in cui la riforma della giustizia. E Cantone? No, aspetta. Nel momento in cui la riforma della giustizia diventa importante, appunto, no? C'è tanta carne al fuoco, tantissimo, intercettazioni. L'abbiamo sentito anche ieri. E poi giustamente Pietrano dice: Cantone, non lo candidano. Uno e trino. Ovunque. L'uomo ovunque. Insomma, secondo me è bene che facciano un po' di chiarezza su questo punto, se no diventa una cosa un po' imbarazzante, a mio avviso. Salamino! Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare già da un pezzo il signor Premier. Il Papa va in visita alla Chinatown di Prato e ha fatto quello che avrebbe dovuto fare il signor Premier, ovvero Matteo Renzi, perché ben prima di ogni teorema sulla vendita di Pirelli a Pechino c'è da capire cosa succede della sovranità territoriale nazionale nell'epoca della globalizzazione che ci arriva dentro casa. E ci pensa il Papa, che da bravo parroco va in visita agli ospiti ultimi arrivati. Allora, sono 4.800 le aziende cinesi a Prato, 32.000 sono immigrati regolari, poi ci sono 15.000 clandestini. I rapporti tra l'autorità sovrana italiana e questa realtà sono stati a oggi, usiamo un eufemismo, squilibrati. I cinesi infatti non hanno mai accettato di piegare la loro irruenza produttiva commerciale alle minime regole di tutela per i lavoratori, che tra l'altro sono loro connazionali. La storia più drammatica, ne abbiamo parlato, è stata quella del dicembre 2013, quando un capannone prese fuoco e uccise 7 operai. Da lì tutto un continuo di attriti e furbizie che fanno la storia della difficile convivenza a Prato tra gli italiani e i cinesi. Doveva andarci Renzi, ma ci sta andando il Papa, ed è una mossa capolavoro. È lo scacco nel grande gioco, se si pensa che il luogo del minuetto col Dalai Lama, che per la Chiesa Cattolica è un capitolo fondamentale, questo Papa è andato alla sostanza delle cose. E la Cina, sia detto per inciso, è la terra di mezzo, che non è certamente la storia di Mafia Capitale, ma è il domani del mondo che è già diventato oggi. E infatti... Sulle orme di padre Matteo Ricci, infatti, il Papa si muove, gesuita anche lui. Sara. La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. La pensano come Jep Gambardella in tanti, tantissimi, e lo spiega Paolo Conti nel suo libro Batti Cuore. Ci fa riflettere sul cambiamento del panorama sentimentale in Italia. Siamo affetti da un batticuore transgenerazionale. La vita media si allunga, i costumi allentano le loro maglie, ed eccoci a un dato sorprendente. Negli ultimi 10 anni le separazioni di uomini e donne ultra sessantenni sono raddoppiate, e invece sono triplicate le coppie che si dicono addio dopo le nozze d'argento. Insomma, una sorta di tana liberi tutti. Siamo eterni ragazzi? Ma c'è un tempo per l'amore? Leggete Batticuore. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, cazzo niente. Che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va. Mario? Andiamo cosa vuoi sapere bolla, della stagione dell'amore? Se, non no, mi quello riguarda. Non dici niente. Non so mi che, riguarda. Lo so che tu troppo amore. No, dai. Facciamo parlare chi parla l'amore. La verità funziona. La verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Gordon, io lo amo proprio. È il tuo mito. È come, sai, quel film, no? Adoro il profumo del Napoli la mattina, più o meno è quello. Allora, e scommettiamo sul petrolio, quella cosa è molto interessante, io adoro i trader, bisogna dire la verità. E sul mercato c'è chi compra, il mercato americano in particolare, c'è chi compra opzioni sul petrolio a $100 nel 2018, tu sai che stiamo sopra i 50, stamattina il VTI è a scommettono 52. Sui $100. Sì, il Brent a 58, scommettono sui $100 in breve tempo in realtà, perché il 2018 è dietro l'angolo. Questo cosa significa? Che tutti gli scenari economici che si fanno adesso sul prezzo del petrolio, che si è dimezzato in 6 mesi, forse bisogna prenderli un po' con le pinze. È vero che nessuno ha la, non è una scienza esatta questa, soprattutto in un mercato così volatile, però è interessante, ci sono anche dei precedenti. L'ultima volta per andare da 64 a $100 ci mise 20 mesi. Insomma, prudenza, perché tutto è possibile. Però lì senti. T'ho fregato perché stavi entrando. Hanno fatto partire Michael no, Jackson. No, vabbè, bellissimo Michael Jackson. Stavi no, dicendo dire... però lì... No, stavo dicendo che gli estrattori di shale gas sono molto, molto in partita, perché per adesso stanno uscendo dal mercato, ma gli investimenti erano stati pazzeschi e sono pazzeschi. Sono e quindi trilioni la guerra, di dollari. Quindi la guerra tra il petrolio a quanto e lo shale gas perché credo che sia una variante di questa partita. È il vero gioco geopolitico del momento. Finché i sauditi giocano a, come dicevo tempo fa, l'omino nel pozzo, allora il prezzo starà basso. Però sai, per esempio i bombardamenti in Yemen l'hanno già fatto salire stamattina, quindi vabbè, tutto è possibile. E intanto noi andiamo col canzoniere. Conobbi allor chi era, e quell'angoscia che m'avacciava un poco ancor la lena non mi impedì l'andare a lui, e poscia che a lui fu giunto alzò la testa pena dicendo: hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena? Mix 24. Beh, Ugo, l'adoro questa. Fleetwood Mac, molto bello. Dreams, parliamo un po' di sogni che in realtà diventano però realtà. E Facebook ha aperto agli sviluppatori il suo Messenger. Che cosa vuol dire questo? Intanto che segue la stessa strada di WeChat, e secondo che cerca di potenziare il servizio al massimo livello. Ricordo a tutti che non parliamo di chiacchiere, come pensa qualche ingenuo, cioè lì dentro passeranno a brevissimo i soldi. Quali soldi? Ma per esempio i tuoi soldi in banca, per esempio dei prestiti tra persone, per esempio prenotare un ristorante, comprare dei fiori, pagare per qualcun altro. Comprare dei fiori, Mario? Sì, non Salamino! Io. Butta fuoco, non io. Il duello, il confronto, insomma, provo a mettere un famoso motto alla prova. Allora, il motto è: se Atene piange, Sparta non ride. Atene è Roma. Roma non fa la storia. E Sparta, invece, è... Sapessi come sta sentirsi innamorate a Milano. Milano, Sparta e Milano. Allora, Atene piange e Sparta non ride. Roma è nelle mani di un PD considerato dagli stessi dirigenti del Partito Democratico, che è il partito del signor Renzi, un partito non solo cattivo ma pericoloso e dannoso, così nelle parole dell'ex ministro Fabrizio Barca, che è stato incaricato di redigere un dossier a questo proposito. Tra gli indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta di Mafia Capitale c'è adesso Maurizio Venafro, che è stato l'uomo di Goffredo Bettini e adesso di Nicola Zingaretti. Milano, che è la Sparta che non ride, a un mese dall'apertura dell'Expo accoglie la notizia delle notizie, e cioè quella che Giuliano Pisapia, il sindaco, non si ricandida e non chiede di essere confermato dalla città. Pisapia naturalmente non è Ignazio Marino. No. Lo ripeterei. Pisapia naturalmente non è Ignazio Marino. No, giusto? No. No. Oh, un certo vantaggio quindi la città della Madonnina rispetto a Roma ce l'ha. Ma prima di ricordare l'interpretazione che ha dato Vincino sul Foglio sulle dimissioni di... cioè sulla decisione di Pisapia di non ricandidarsi, avevo un lapsus di speranza sulle dimissioni di Marino, stavo per dire, insomma. Figurati. Sapete come Vincino ha dato l'interpretazione su questa decisione? No, perché ha detto giustamente: con tutti questi inquisiti di lusso che ci sono per l'Expo, Pisapia, che è un fior di avvocato, non è che può perdersi questa ricca opportunità di mettere nel carniere questi clienti. Però io vorrei fare questo, se siete d'accordo. Proporrei una gara con i nostri ascoltatori, fatevi vivi attraverso Twitter, attraverso SMS, telefonate, nello stabilire chi sta peggio. Ah, Roma o Milano? Bella domanda, vede, intanto... La famosa nazione è infetta. E intanto... Ci piace Valemanno, ma pure un po' Marino, da quando col pandino non lo fanno parcheggia. La società dei magna magna, se magno io magni pure tu. La vera mafia scrive i pizzini, a noi ci piace telefonare. Ma chi è? E intanto Giovanni, chi è? Giovanni da Carbonia, ha indovinato? Pronto? Sì, buongiorno, di sì. Buongiorno. Pronto. Buongiorno, cioè? Purgatorio, canto quinto. Accidenti. Ehi. Allora, diamola per... Perché non è buono, eh? Perché il canto è il quarto. Giusto, è vero. Adesso no, stavo guardando... Adesso così un'altra cosa, scusate, il canto quarto. Vabbè, ma qui il giudice sardo dà ragione. Allora, la parsa. Prima di tutto, sentite che bell'accento sardo. Sempre. Carbonia. Senti come schiocca. Che fa di bello. Poi Carbonia è una città fondata da chi se ne intendeva di fondazioni. Esatto. Diciamolo. Io però sono anche di origine siciliana. Sappiamo tutto. Allora Torino non c'entra due niente. Torino niente. Grazie, auguri. Il 26 marzo del 1893 a Genova nasceva Palmiro Togliatti, il leader del Partito Comunista Italiano. Oggi raccontiamo la sua storia, la raccontiamo naturalmente attraverso gli eventi di un anno cruciale, il 48, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione e in cui si svolgono le prime elezioni democratiche del dopoguerra, fino a una mattina del 14 luglio, quando un giovane siciliano attenta alla vita di Togliatti. Subito dopo il giornale radio con Marina Milone, la storia di Togliatti. Ma prima della pubblicità, la pioggia di marzo di Mina. Ma è forse quando tu voli, rimbalzo delle stare da sole, con chi le difetto e la luna. Sono la morte, e credere o no, Margherita di campo, la riva lontana, a tu babau, è la fata morgana, è folata di vento, onda dell'altalena, un mistero profondo.